ti ho vista in giro, in modo senza casco, sei un cretino. È come un film di guerra il tuo mirino, lo specchio in cui mi ammiro e faccio schifo. Lo so che questa storia è un cimitero di like, ma il cuore è vero, non ce l'hai messo mai. Spaccati da una crepa sopra il display, non c'è storia, no way. Però non riesco a dirti bye, goodbye, e resto dentro al tuo wifi, fai, fai. Come la password che non trovo mai, vabbè ci provo un'altra volta, volta. L'ultima prima che ci prenda un colpo, mi dice l'ultima e siamo già a 100. Classico. Volevo fare l'amore, ma è uscita un'altra stagione. Potevi almeno aspettare il finale, ci farà male. Che questa storia è un cimitero di like, ma il cuore è vero, non ce l'hai messo mai. Spaccati da una crepa sopra il display, non c'è storia, no way. Però non riesco a dirti bye, goodbye, e resto dentro il tuo wifi. Riesco a dirti pa.